Grazie molte, ho colto con vero piacere l'invito che mi è stato rivolto. Non conoscevo, non ero mai stato qui in questa residenza e dico subito, esprimo il mio compiacimento. Ho appena visto alcune cose che mi hanno particolarmente colpito, ma soprattutto perché questo incontro mi permette e mi ha permesso di vedere molti amici, cominciare dal rettore magnifico che ha avuto la generosità di assumersi un impegno certamente non lieve, il signor sindaco e altri amici colleghi che ho visto nei minuti che hanno preceduto questo incontro. E allora entro subito nel merito dell'argomento che mi è stato assegnato, una riflessione ovviamente sintetica sull'attuale momento socio-economico che stiamo vivendo, partendo da una constatazione. Quella in cui viviamo è un'epoca di paradossi. Paradosso, in greco, come sappiamo, è tutto ciò che desta meraviglia, sorpresa. E cos'è che desta meraviglia tra le tante cose che si possono dire? Ne cito alcune. All'aumento della ricchezza, a livello sia nazionale che globale, mondiale, contemporaneamente si affianca un aumento delle ineguaglianze. Non ho detto della povertà, la povertà assoluta è altra cosa, ho detto delle diseguaglianze. E questo è un paradosso. Perché in passato interi filoni di ricerche di pensiero sia economico sia sociologico avevano ritenuto che le diseguaglianze tra gruppi sociali o tra persone all'interno di uno stesso gruppo fossero la conseguenza di una incapacità del sistema di generare reddito o ricchezza. E invece oggi ci troviamo che i nostri sistemi sono molto ben attrezzati per aumentare sia l'uno che l'altro reddito e ricchezza e contemporaneamente, come l'indice di Gini, coefficienti di Tei, che sono strumenti con cui si misura la diseguaglianza, questa aumenta. Un altro paradosso, aumenta la capacità del sistema globale di produrre beni di primaria necessità come granaglie, riso, eccetera, e contemporaneamente aumentano coloro i quali soffrono la fame, che se non proprio in senso proprio, comunque la denutrizione cosa aumenta. Ditemi voi se questo non è un altro paradosso. Uno sì, è stato calcolato da studi della FAO che il sistema globale nel suo complesso potrebbe produrre cibo per sfamare 12 miliardi di esseri umani. Attualmente siamo meno di 7 miliardi, quindi non si può dire che la mancanza di cibo per larghi effetti di popolazione sia dovuta ad una carenza dell'offerta di beni che servono a soddisfare i bisogni, perché se il sistema sarebbe in grado di sfamare 12 miliardi, capite da solo, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va ad altro livello, eppure fino a tempi recenti, anche l'opera in questo senso degli economisti, si è fatto credere che fosse la mancanza delle risorse a far soffrire popolazioni di un tipo o dell'altro, e invece scopriamo oggi che non è la mancanza di risorse, è la mancanza di istituzioni adeguate, in questo caso le istituzioni sono quelle economico-finanziarie, che pur in presenza di un eccesso di offerta determinano la sofferenza o la fame in altri. Un altro paradosso, e poi mi taccio, è quello ancora più intrigante dal punto di vista sia culturale sia politico, il cosiddetto paradosso della felicità. E cioè, ormai è chiaro a tutti, anche a chi fino ad anni recenti non voleva prenderne atto, che all'aumento del reddito pro capite, cioè del reddito medio dei paesi o di gruppi di paesi, non corrisponde un aumento dell'indice della felicità, anzi, è il contrario, all'aumento del reddito pro capite, al di là di una certa soglia, la curva che descrive la relazione tra i due variabili è discendente, cioè dire, più aumenta il reddito pro capite, più la infelicità aumenta. Qualcuno di voi potrà chiedermi subito come si misura lì. E ci sono ormai metodologie statistiche basate su parametri alcuni oggettivi, altri di tipo soggettivo, che appunto misurano la felicità intesa come benessere. Benessere bisogna scriverlo come ho pronunciato, ben-essere, che è diverso da ben-avere, l'essere bene. La fioritura, l'eudamonia di cui parlava già Aristotele, la fioritura umana, eccetera. E ci sono ormai studi rilevantissimi che cercano di capire la natura di questo paradosso. Però il paradosso è intrigante, perché mina alla base la legittimazione, per non dire giustificazione, di un certo modo di produrre. Perché qual è il senso di organizzare l'attività economico-produttiva che, se da un lato aumenti il reddito e quindi ti consente di comprare più merci o cose di varia natura, al tempo stesso aumenta il tasso di infelicità? Pensate al tasso dei suicidi. Sapete voi che è in continuo aumento il tasso dei suicidi? E il povero non si suicida mai. Se voi vi trovate un povero che si suicida, vincerete la scommessa, ma non la vincerete. Perché il povero sa che il futuro, o spera che il futuro, sarà migliore del presente. Chi si suicida è uno che ha perso il senso, cioè la direzione della propria vita, chi ha già ottenuto. E questo dato è inquietante. Aggiungete il tasso di coloro che sono affetti da sindrome di depressione. Una volta la depressione non esisteva, oggi sono tutti depressi. È un fenomeno questo che richiede, pensate al consumo degli psicofarmaci o delle droghe di varia natura, pensate al tasso dei divorzi. Anche questo è, una volta il divorzio era un fatto eccezionale, oggi è diventato la norma. Ed è chiaro che il divorzio è sempre il sintomo di una infelicità o di una insoddisfazione. È così. Allora il punto è: come dare conto di questi e di altri, che avrei potuto aggiungere, paradossi, che ci aiutano a capire il disagio di civiltà, per ripetere il titolo di un celebre saggio di Freud, ormai di qualche anno? Cioè, il disagio di civiltà, cominciamo a capire, non è dovuto tanto a carenza di risorse, alla scarsità, come illustri economisti fino a tempi anche non molto lontani continuavano a dire, illudendo, perché hanno fatto capire che fosse la scarsità dei beni materiali a generare le ineguaglianze, l'infelicità, eccetera, e così. Ebbene, una chiave di risposta a questo che ho detto ci viene, una chiave, dalla recente enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate. È un'enciclica molto particolare, e che, come i presenti sicuramente sanno, sta avendo un successo che nessuno, cominciando dal Papa stesso, aveva previsto. Perché, se voi guardate, è in cima alle classifiche delle vendite della saggistica ormai da 3-4 mesi. Non era mai accaduto che un'enciclica fosse nella top delle vendite. Per non parlare poi di quel che avviene in America, in Inghilterra, dove non passa settimana senza che illustri giornali o riviste anche specializzate dedichino, il che non vuol dire che tutti si dichiarano d'accordo, ma non è questo il punto. Il punto è che fa parlare, fa discutere. Allora, come mai questo? Come mai questo interesse? Voi sapete che è l'indifferentismo che è il male maggiore nei confronti di un prodotto della mente, di un prodotto culturale, non che ci siano voci dissonanti o altre, anche se è vero, per onore di verità, dire che la gran maggioranza delle osservazioni sono a favore, poi c'è qualcuno che invece esprime parere contrario. Ebbene, come dare conto di questo fatto che è inaudito? Non era mai accaduto in passato con le altre encicliche, neppure con la centesimo Sanus di Giovanni Paolo II, che pure aveva rappresentato. Perché questa è un'enciclica nuova, completamente nuova, non solo e non tanto nel linguaggio, ma nelle categorie di discorso che adotta, ma perché innova su un punto fondamentale, cioè anticipa alcuni trend per quanto riguarda il pensiero sul piano sia economico sia sociologico. Ora, in particolare, c'è in questa enciclica una lettura della crisi economico-finanziaria in atto che può essere ricondotta alle paradossi di cui ho fatto parola poc'anzi, e cioè noi sappiamo che, anche se di questo l'Egitto non può e non deve parlare a questo livello di technicalities, sappiamo che due sono i tipi di crisi, come la storia ci ha insegnato, delle grandi crisi. Una è la crisi cosiddetta dialettica, l'altra è la crisi entropica. Una crisi si definisce dialettica quando discende da un conflitto fondamentale che la società, per un motivo o per l'altro, non riesce a risolvere. E quindi lo sbocco è appunto la crisi di tipo dialettico, la crisi come momento per superare appunto quel conflitto che non si è potuto risolvere in maniera, diciamo, regolare o, se volete, civile. Abbiamo esempi storici di questo, di crisi, appunto. Ad esempio quella del 29 fu una crisi di tipo dialettico. La crisi attuale non è di tipo dialettico, è di tipo